Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È morto Silvio Berlusconi nel 2018, l'ultima visita del presidente di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. Protagonista degli ultimi 30 anni, il cordoglio della politica regionale nelle parole del governatore Fedriga. Cade dalla pedana di un camion della Nettezza Urbana di Pordenone, operaio in gravissime condizioni. Transizione all'idrogeno e interporti nel primo step della manovra di assestamento che si chiuderà a luglio. Esami di terza media al via per 10.200 ragazzi che in Friuli Venezia Giulia concludono il ciclo della scuola secondaria. Trieste, maglia nera del nord per durata dei processi civili, 746 giorni, i tempi si allungano a Udine, Pordenone e Gorizia. Premio Tomizza, Diego Zandel, lo scrittore che racconta l'esodo visto dalla seconda generazione, l'intervista. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Come avete sentito dai titoli, Silvio Berlusconi è morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era nuovamente stato ricoverato venerdì scorso. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni. A Trieste coordinò tra l'altro il summit dell'INCE e i bilaterali con Schröder e Merkel. Un legame forte quello di Silvio Berlusconi con il Friuli Venezia Giulia, con Trieste in particolare. Nel capoluogo regionale il fondatore di Forza Italia, da Presidente del Consiglio, organizzò importanti incontri su tutto il vertice dell'iniziativa centroeuropea del novembre 2001, che vide ospitati alla stazione marittima i capi di governo dei paesi dell'area e che mise la città al centro dell'attenzione nazionale e non solo per diversi giorni. Oltre a quel vertice, i due incontri con i cancellieri della Germania, prima quello con Gerhard Schröder l'8 marzo del 2002 e poi il 18 novembre del 2008 quello con Angela Merkel, passato alla storia come la visita del cucù per un piccolo scherzo giocato da Berlusconi stesso alla sua ospite in Piazza dell'Unità d'Italia. Lontano dalle telecamere poi un appuntamento privato come la presenza al battesimo della figlia di Roberto Antonione a Muggia nell'ottobre del 2002. E poi le ripetute occasioni in cui Berlusconi arrivò in regione come leader di partito, di norma accompagnato da una grande attenzione da parte del pubblico e dei mezzi di informazione, dalle convention nei palasport alle passeggiate tra la folla. La sua ultima presenza risale alle elezioni regionali del 2018. Tra i suoi appuntamenti in quella occasione anche una visita alla Malga di Porzus avvenuta il 25 aprile. Il servizio era di Andrea Vardanega. Protagonista indiscusso della politica degli ultimi 30 anni, a Silvio Berlusconi va anzitutto riconosciuto il grande merito di essersi generosamente messo in gioco in una stagione, quella italiana dei primi anni 90, segnata da laceranti conflitti interni, e di aver saputo interpretare un ruolo di primissimo piano tanto nelle vesti istituzionali quanto di leader di partito nei successivi decenni. Con lui scompare un pezzo della storia d'Italia, ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sono personalmente molto scosso e triste. Il paese, l'Europa, tutti noi abbiamo perso un amico, un grande leader politico e uno statista. A dirlo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Nel 2001 ricorda: gli illustrai cosa volevo fare per far crescere la città. Ti ci vorranno 20 anni per realizzarlo, ma sono sicuro che ce la farai, disse. Ricorda ancora Di Piazza, che aggiunge: come Berlusconi, prima di tutti, ha sempre creduto nelle potenzialità della città, tanto da farla diventare punto d'incontro di importanti vertici internazionali. Ciao grande uomo, grande amico dell'Italia e di Gorizia. Così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha commentato con commozione la scomparsa di Silvio Berlusconi. Viene meno un grande uomo che tanto ha dato al suo paese, che amava immensamente, ha concluso il sindaco del capoluogo isontino. Con lui ho percorso 30 anni del mio impegno politico e amministrativo. Un protagonista assoluto della storia imprenditoriale e politica del nostro paese, ha detto Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale, commentando la scomparsa di Silvio Berlusconi e rivolgendo ai familiari le più sentite condoglianze della massima assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia. La scomparsa di Silvio Berlusconi, aggiunge Bordin, perdiamo un importante punto di riferimento politico e istituzionale, nonché una persona impegnata da sempre per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Anche nei momenti di maggiore difficoltà Berlusconi ha saputo mettere in campo grandi energie. La sua scomparsa, conclude il presidente dell'Aula, lascia un grande vuoto nel mondo della politica e delle istituzioni. Perdiamo un leader unico, un uomo di formidabile carisma e capace di centrare risultati inimmaginabili ad ogni livello, sia come imprenditore che come politico, dice il capogruppo e coordinatore regionale di Forza Italia, Sandra Savino. Silvio Berlusconi aggiunge: Savino è stato un visionario capace di anticipare scenari e governare dinamiche che nessuno poteva nemmeno immaginare. Esce di scena un gigante. Noi abbiamo la responsabilità di proseguire il percorso che lui ha indicato. Con Berlusconi scompare un protagonista dell'Italia degli ultimi decenni. Avversario controverso, figura riconosciuta nel mondo, ha cambiato la politica e il costume. Ora il cordoglio alla famiglia e ai colleghi del gruppo di Forza Italia al Senato, scrive su Twitter la senatrice del PD, Tatiana Rojc. Chiudiamo per il momento questa pagina dedicata alla scomparsa di Silvio Berlusconi. In giunta regionale oggi sono state stabilite le prime ripartizioni della manovra di assestamento. I lavori si concluderanno a luglio e ce ne parla Sebastiano Franco in diretta in studio. Una manovra finanziaria che immette nel sistema regionale risorse per 652 milioni di euro, dando risposte importanti allo sviluppo e al benessere dei cittadini, assicurando copertura a tutti i settori strategici della regione. A dirlo l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, a commento dell'approvazione preliminare da parte della giunta su proposta della stessa Zilli della manovra finanziaria di variazione di bilancio. È il primo step, manovra che si concluderà, iter che si concluderà a luglio. Come ha spiegato l'esponente della giunta, tra gli interventi si inserisce una novità che afferisce alla salute degli anziani con il progetto della domotica, per il quale sono previste risorse per 2 milioni di euro. Tra le altre voci della manovra risulta il finanziamento aggiuntivo per il progetto transfrontaliero della Valle dell'Idrogeno con 10 milioni di euro, mentre sempre sul tema ambientale della transizione ecologica verso l'idrogeno sono previsti 14 milioni di euro per le imprese. Altre voci riguardano gli interporti regionali per le opere cantierabili finalizzate ad una migliore funzionalità della logistica. Inoltre, per quel che riguarda la cultura, viene sostenuta la candidatura di Pordenone, capitale italiana della cultura, 2026. E sullo sport, infine, è previsto un finanziamento per l'organizzazione dei campionati mondiali di softball nel 2024 in regione. Da segnalare ancora i 15 milioni di euro destinati all'aumento di capitale di Insiel per la realizzazione di un data center. E nel dettaglio delle competenze delle direzioni dell'amministrazione regionale, i 652 milioni vengono suddivisi in 44 milioni alle attività produttive e turismo, 46 milioni alle risorse agroalimentari, 33 milioni alla difesa dell'ambiente, 45 milioni a infrastrutture e territorio, quasi 10 milioni a cultura e sport, 20 milioni a lavoro, formazione, istruzione e ricerca, all'assessorato di Alessia Rosolen, e poi 9 milioni alla protezione civile, 115 milioni alla salute. Questi sono gli assessorati di Riccardo Riccardi, politiche sociali e disabilità, 180 mila euro ad autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, 144 milioni invece a patrimonio, demanio e servizi generali, e poi infine, non da ultimo però, naturalmente, i 185 milioni alle finanze, l'assessorato di Barbara Zilli. E voi? Passiamo alla cronaca. Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 7 per un infortunio sul lavoro verificatosi a Torre di Pordenone, nella zona di via Francesco Baracca. Per cause in corso di accertamento, l'uomo, un operatore ecologico, è caduto dalla pedana del camion con il quale stava lavorando, battendo la testa. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza e di un'automedica provenienti da Pordenone e l'elisoccorso, che ha trovato il ferito in stato di incoscienza e ne ha disposto il trasferimento in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni. Ora parliamo dei tempi lunghissimi della giustizia civile. Non va bene il Friuli Venezia Giulia, lo sottolinea un'indagine pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore. Sentiamo. Trieste, maglia nera del nord Italia, ma anche gli altri fori della regione non se la passano affatto bene. I tempi della giustizia civile in Friuli Venezia Giulia rimangono altissimi, anche se nello stesso capoluogo scendono, mentre crescono addirittura in doppia cifra Pordenone, Udine e Gorizia rispetto al 2019. Sono i dati che emergono da una ricerca del Sole 24 Ore, A Trieste le tempistiche più lunghe, secondo il parametro del disposition time, preso in considerazione anche per le risorse aggiuntive del PNRR, un processo civile dura 746 giorni, di gran lunga il peggior dato del nord Italia. Due i problemi, ci spiega il facente funzioni Arturo Picciotto, in attesa dell'insediamento del nuovo presidente del tribunale a fine mese. Il primo, che a intasare il foro e allungare i tempi, sono i dati dei numeri sulla protezione internazionale dei richiedenti asilo della rotta balcanica e i ricorsi, in genere quasi tutti respinti. Parliamo del 70% degli atti che creano arretrati e lentezza, altrimenti, ci viene detto, saremmo in linea con il resto del nord-est. È effettivamente vero, visto che il Tribunale triestino è addirittura tra le eccellenze italiane per i tempi dell'esecuzione immobiliare con vendita, solo 58 giorni, contratti bancari, 282, e i diritti reali, come ad esempio usucapione o le cause per le servitù, sotto i 400 giordi, come anche il Tribunale di Pordenone. La seconda causa, invece, è endemica e reale e riguarda tutti i tribunali del Friuli Venezia Giulia, la carenza di personale che va dal 35 al 45% con scoperture di personale ordinario delle cancellerie che inficiano non poco sui tempi dei processi. Un problema che non ha soluzione, i concorsi vanno deserti e i pochi vincitori, quasi tutti meridionali, ottengono il trasferimento in poco tempo lasciando di nuovo il buco in organico. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Esami di terza media al via in Friuli Venezia Giulia, iniziate le prove di fine ciclo della scuola secondaria. Primo giorno di esami per la terza media, in realtà non tutti gli istituti scolastici inizieranno oggi, c'è la facoltà di decidere ogni istituto quando partire, l'importante è non sforare la data del 30 giugno per il termine di tutto il percorso degli esami, che sono costituiti da più prove scritte e anche orali. Ci facciamo spiegare meglio come funzionano gli esami del primo ciclo dal dirigente tecnico Alida Misso dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Quanti sono intanto gli studenti? Sì, buongiorno, gli studenti sono oltre 10.000, 10.200 circa, tra scuole statali e scuole paritarie, per più di 500 classi. Come si struttura l'esame? L'esame, il dato importante, insomma, che quest'anno si ritorna all'esame di Stato come era prima della pandemia, quindi in applicazione della normativa precedente, ci saranno tre prove scritte, la prova di italiano, la prova di matematica, logico-matematica e la prova di lingua straniera, più un colloquio che verte proprio sulle competenze, conoscenze e abilità che i ragazzi hanno maturato nel corso del triennio. Le linee guida ministeriali lasciano un pochino di margine ad ogni istituto per qualche sfumatura? L'applicazione normativa, insomma, ovviamente è uguale per tutti gli istituti, poi chiaramente tutti gli istituti tengono conto del percorso e del curriculum che hanno svolto nel corso del triennio e tutto questo confluisce poi nel voto di ammissione all'esame di Stato per i ragazzi del primo ciclo, che è appunto un voto in decimi che tiene conto proprio di tutto il percorso che la scuola ha sviluppato nel corso del triennio. Questo triennio, naturalmente, per i ragazzi che oggi fanno l'esame è stato un po', come dire, impegnativo, perché sappiamo che ci sono state parecchie chiusure, insomma, delle scuole, comunque delle deroghe anche per gli esami degli anni precedenti, quindi insomma siamo in questa fase di novità per quanto riguarda l'anno scolastico in corso. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine la Giunta presenta oggi le novità per i DEORS che entreranno in vigore il prossimo anno. Stop ai nuovi DEOR chiusi in comune di Udine fino al prossimo anno. La decisione è stata presa dalla giunta di Palazzo Taronco, che ha sospeso fino al 2024 la realizzazione di questo tipo di struttura. La delibera verrà presentata oggi in consiglio comunale. Tutte le autorizzazioni in atto resteranno comunque tali e non ci saranno variazioni. Tutto normale invece per i tavolini all'aperto. Alessandro Venanzi, vice sindaco del comune di Udine. Da un lato ministeriali, dove la sovrintendenza allarga la zona di tutela e di protezione, dall'altro ci sono alcune attività progettuali dell'amministrazione che prevedono la revisione della ZTL, la revisione degli spazi pubblici, l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi ci costringono a prendere un po' di tempo per avere una visione complessiva e poi andare a rivedere e a rilasciare i permessi in maniera omogenea rispetto a queste priorità. Durante questo periodo di sospensione il Comune si impegnerà a valutare attentamente le richieste e le necessità degli operatori economici e degli imprenditori locali per dare impulso allo sviluppo del settore e che gli spazi esterni delle attività commerciali si integrino con l'ambiente urbano. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Competenze digitali certificate grazie alla patente europea del computer. Come ottenerla e a cosa serve? Lo spiega un docente dell'Università di Udine. Le competenze digitali degli europei vengono certificate con una patente europea dagli anni 90. In Italia l'ente certificatore è l'AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico, una società di informatici fondata nel 1961 e cofondatrice del CEPIS, il Consiglio Europeo delle Società Informatiche. L'AICA ha tra i propri compiti istituzionali anche la promozione delle competenze digitali tra i cittadini. A presiederla Antonio Piva, che è anche docente di informatica all'Università di Udine. Per quanto riguarda la patente del computer, ci sono da un lato, insegna all'uso consapevole e produttivo degli strumenti d'ufficio che noi tutti utilizziamo, ma anche adesso ha fatto un passo in avanti e per cui ci sono nuove competenze come il saper utilizzare il digital marketing, quindi il marketing digitale, oppure sulla competenze riguardanti la cyber security. C'è un modulo che si chiama IT Security che insegna proprio alle persone a utilizzare consapevolmente non solo il computer ma anche lo smartphone, il tablet eccetera con sicurezza, avendo i primi rudimenti diciamo della cyber security. E per iniziare questi moduli della patente a chi bisogna rivolgersi? Noi abbiamo, grazie anche alla collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione del Merito ma anche col Ministero del Lavoro, abbiamo dei protocolli d'intesa con tutti gli uffici scolastici regionali e diversi assessorati regionali. Da lì poi abbiamo in Italia circa 2500 enti che per noi erogano questi servizi di certificazione. Tipicamente sono le scuole, gli enti di formazione, ma anche le principali università. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile sui monti. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 24 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 21 gradi. A Gorizia 25 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 25, a Tormezzo 21 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e a Tarvisio 19 gradi, a Sappada 17. Sul Piancavallo 14 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolano 11 gradi e 5 decimi, sul Lussari 10 e mezzo, sulla costa Grado 25 gradi e 5 decimi, Lignano 25 gradi, temperatura del mare nelle due località 23 gradi. E vediamo le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio si avrà variabilità a partire dalla zona montana con probabili rovesci e qualche temporale, in successiva estensione a qualche zona di pianura e forse anche della costa, specie occidentale. Su coste e zone orientali soffierà bora moderata. Domani di notte e di mattina residua nuvolosità, specie a ovest, con bora moderata sulla costa. In giornata si avrà qualche schiarita, specie verso la costa, dove entrerà brezza, ma anche nuovi annuvolamenti con qualche pioggia o rovescio sulla zona montana e localmente anche in pianura. Ora la cultura. Sarà conferito allo scrittore Diego Zandel il premio Tomizza 2023 attribuito dal Lions Club Trieste Europa. Giunto alla sua 19ª edizione, il riconoscimento, che gode del patrocinio del Comune di Trieste, sarà conferito nel corso della cerimonia ufficiale aperta al pubblico, in programma alle 19.30 al Caffè Tommaseo di Trieste. Per Zandel, nato nel 1948 nel campo profughi di Servigliano, nelle Marche, da genitori fiumani costretti a lasciare Fiume per le note vicende storiche che hanno sradicato quasi tutta la cittadinanza italiana dalla città del Quarnero, un riconoscimento particolarmente significativo per il suo legame personale con Tomizza. Il premio porta il suo nome e quindi per me è un onore, oltre che piacere, ricevere qualche cosa che lo ricordi e che riporti soprattutto la sua opera. Poi io ero molto legato a Fulvio, devo a lui anche se ho cominciato il mio lavoro di scrittore come narratore, perché io uscii tanti anni, avevo 18 anni, con la Società Artistico-Letteraria di Trieste pubblicando un libro di poesie. Lui mi intervistò per la RAI e con la sua voce calda lesse anche alcune mie poesie relative a Lizia. Poi io scrissi un romanzo che si chiama Una storia strana, lo mandai a lui e lui, sua sponte, lo mandò alla Mondadori. È stato il battesimo del mio mestiere di narratore. Poi in seguito, in che modo il lavoro, il pensiero di Tomizza hanno influenzato il suo? Beh, lui è innanzitutto il primo scrittore che ha trattato il tema dell'esodo, del nostro esodo. La letteratura dell'esodo è antica, mentre per quanto riguarda noi, Tomizza è stato il primo, poi c'è Lamadieri, c'è Enzo Bettiza, cioè tutti i maestri. In qualche modo io sto nel solco loro, perché sono nato in campo profughi, figlio di esuli fiumani, ho vissuto nel campo profughi prima di Servigliano, poi al villaggio Giuliano Dalmata, che era un campo profughi sostanzialmente, e con queste tematiche, queste cose, gli autori che amavo, il primo che ha trattato quello che io stavo vivendo, con gli occhi ovviamente rivolti all'Istria, era Fulvio Tomizza. Quindi ha seminato dentro di me, per trattare anch'io il tema del confine orientale, vissuto ovviamente da protagonista della seconda generazione, mentre lui è della prima, come i miei genitori, e io appartengo alla seconda generazione che ha vissuto però attraverso gli occhi, i sentimenti, le emozioni, i silenzi delle nostre genti, il dramma. Quindi Tomizza ha lasciato questo in me e gli sono grato per sempre. Un appuntamento a Trieste alle 18.30 all'antico caffè San Marco, Radici, la ribolla di Oslavia, una tradizione di famiglia, incontro con Marco Primosic. Nella pagina dello sport, la sconfitta a Pordenone della nazionale femminile di basket nell'ultimo test prima dell'Eurobasket Women, che si giocherà tra Slovenia e Israele a partire da giovedì. All'Ital Basket femminile manca la costanza di rendimento nell'arco dell'intera partita, mentre la Germania appare un po' più solida e porta a casa il successo. È solo un'amichevole, ma è pur sempre la prova generale prima dell'inizio degli europei. La partita disputata al Pala Crisafulli di Pordenone, 2.000 gli spettatori, federazione molto soddisfatta della risposta di pubblico, si è messa subito in salita. Attacco con le polveri bagnate nel primo quarto, Germania più attrezzata sul piano fisico, anche se priva della star WNBA Satou Sabally. Alti e bassi da ambo le parti nel secondo quarto ed è stato il tema della partita. Italia avanti per la prima volta sul 24-21 con un break di 9-0. Poi nella ripresa le tedesche piazzano un contro break e tornano sul più 8, 36-28. Il punteggio dell'intervallo lungo. Il tutto è frutto di palle perse e scarsa efficacia offensiva. Per buona parte del terzo quarto l'Italia dà il meglio, difesa aggressiva e quasi impenetrabile, soluzioni positive in attacco non tanto con Zandalasini, ovviamente sorvegliata speciale delle tedesche, ma con le altre, in particolare un'ispirata Keys, che approfittano bene degli spazi creati. Massimo vantaggio 48-43, esaltante ma non dura. La squadra di Lardo si ferma, in compenso le tedesche trovano canestri buoni e non concedono più nulla. Nuovo ribaltamento a cavallo fra terzo e quarto tempo, le ospiti piazzano un parziale di 15-0, non c'è più nulla da fare. La reazione consente alle azzurre di avvicinare le avversarie fino al 70-65 finale. Keys mette a segno 19 punti, quasi un terzo del bottino dell'intera squadra. Ora tutte a Tel Aviv e da giovedì si farà sul serio contro la Repubblica Ceca. Vista la partita contro la Germania, bisognerà giocare in maniera più continua per fare strada. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale. In regia Mauro Cumin e Tommaso Vinoni, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo, l'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie dell'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.